2 novembre, giorno dei... È morto. Giorno dei è morto? Sì. Non funziona. È bello. Ma poi scusa, noi il giorno dei morti siamo qui a fare i cretini all'asilo. Non si fa. Vabbè, inutile lamentarsi, non si fa. Già si sapeva che mentre gli altri erano lì a farsi il ponte, e noi saremmo stati qui a lavorare, come sempre. Poi in effetti oggi, oltre a essere il giorno dei... È morto. È anche venerdì. Sì, no. Oggi no, Draco. Vabbè, però, è il giorno dei morti di venerdì. Infatti è un venerdì diverso dagli altri, per una lunga serie di motivi, non solo per... Chissà che lunga serie di motivi. Non solo perché è venerdì. Sono. Vabbè, innanzitutto è nel bel mezzo di un ponte che è cominciato mercoledì sera. Mercoledì. E quindi il venerdì perde un po' di senso. Il mercoledì che comincia il ponte diventa un mercoledì. Diventa un venerdì, il venerdì perde senso. Poi appunto un giorno di riflessione, è il giorno dei morti, quindi di riflessione, sì. Meditazione, contemplazione. Si celebrano i defunti, i nostri cari che non ci sono più. Ehi, Tito! Tito, cos'hai? Cosa c'è? Lo so io cosa c'è. Vuole giocare! Ma chi, Tito? Sì, ma perché? Spiegaglielo tu, Drago, che è il giorno dei morti. Tito, il giorno dei morti. E quindi non si gioca perché è un giorno di riflessione. Di meditazione, di contemplazione delle tombe. Io non lo conosco il linguaggio dei bassotti, tu sì, tocca a te spiegarglielo. Tito, allora, calmo! Allora, adesso ti spiego. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pugliese. E ora, bambini, ricreazione! Benvenuto, bagno, amico, porta di qui che c'è gente. Dai, amico! Buongiorno! Porta di qua. Buongiorno, amico! Buongiorno. Ciao, bello! Ciao, bello. Senta, io vorrei una pizza. Una pizza? Sì, però avrei una certa urgenza, però, perché sono uscito dall'asilo, dovrei rientrare subito. Una pizza. Una pizza? Una pizza piacere, una pizza regina. Pizza regina? Non tengo, pizza regina, finito tutto, amico. No, una pizza ricca, una pizza regina nel senso una pizza fantasia, la vostra specialità. Una pizza con i babaroni, amico. No, abbiamo pizza, babaroni. No, ecco, senza peperoni meglio, perché per quelli non li, l'unica cosa che non digerisco sono i peperoni. La pizza dei babaroni e... Però... A parte regaliamo bubazzo, capito? Pizza con babarone e pupazzo. Allora va bene, allora va bene i pupazzi di... Pupazzo di babarone, amico. No, la pizza senza peperoni, perché quelli mi sono indigesti. Regalo pupazzo, dipende da che film avete. No. Avete i pupazzi del film? Pizza babarone con il pupazzo d'Egitto. Film... Bubazzo d'Egitto di babaroni. Il principe d'Egitto, ma è un film vecchio quello lì. Pizza di babaroni con un bubazzo d'Egitto. Pizza, se vuoi, con prosciutto per carne di maiale, però non piace. Noi non piace, però compri per voi. Insieme a pizza col babarone e il bubazzo. Ecco, allora io prendo pizza. I peperoni abbiamo già chiarito, no? Peperoni? Niente. Regalo, peperoni. Vabbè, regalo e diamo al cane. I peperoni? No, non butti, amico, non butti in terra. No, amico. No, non ho buttato niente. No, tu fa come mio figlio, amico. Prende pizza e botte e non paga perché papà lavora, no? Vabbè, cosa c'entra? Poi il suo figlio paga la pizza. Sì, cioè... Amico, non urli. No, non urli, per favore, urla. Carabiniera qua. No, che carabiniere, no. Casino di Madonna, Talia. No, io sono qua l'asilo, può chiedere. Devo andare, se mi fa sta pizza, com'è? Pizza, babarone con pupazzo. Pizza, facciamo pizza e pupazzo di regalo. Puzza di pizza. Di pizza di carne di maiale che non piace. Non piace. Prosciutto va bene. Prosciutto, non piace noi, prosciutto. Ma no, non piace, ma vendete. Io vedo, c'è scritto lì, pizza prosciutto. Pizza prosciutto finito, amico. Finito tutto. E c'è la bresaola. Mi fai quello con la bresaola? Bresaola, finito bresaola, perché non piace tanto bresaola, qua a Milano, anche Italia. Ma casa mia, non piace. Non piace. Allora facciamo un salume a piacere, che vedi, un salume vostro, il tipico. Kebab? No, kebab, la pizza. Prendi pizza con un babarone? No, il peperoni, allora... E il babarone rosso, no, un bubazzo verde. No, io, allora, facciamo così, io prendo una pizza, una focaccina liscia, senza peperoni e senza bubazzo, perché non importa, cioè due... Pizza regalo, no. Pizza regalo io, babarone tu paghi, babarone, bubazzo bianco o giallo. Ma io non li voglio i peperoni, perché devo pagarli? Mi fa un focaccino? mi fa una focaccina. Finito, amico, finito tutto, venuto sempre gomista, gomrato tutto, buttato in terra, non pagato. Vabbè, ma chi è? Cosa c'entri col gomista? Ma avete qua? Ehi, lei... amico, non urli, non no, urli. No, no, non ho rato, cosa c'entra? Non urli, amico. Casino, ma io... di Madonna qua, ma no, casino. Madonna, ma essere bestemmiare, perché devo andare all'asilo? Prendi qualcosa per l'amico, prendi, dai. Prendi, una focaccina liscia, e poi me ne vado. Adesso io vado, devo andare all'asilo. Prendi tovaglia, no, per l'amico. Fermi a mangiare, prendi tovaglia. No, non posso andare, ho detto che andavo a fare una pipì, sono con ragazza, due paparoni, amico, con no, ragazza. Che... con ragazza, fermi. No, che ragazza, io sono da solo. Quindi. Fermi con ragazza, metto in terra tovaglia. No, che terra tovaglia, io devo andare via, poi non mangio mica per terra. Paparoni per te, no, bubazzo per lei. No, se mi scoprono poi mi sospendono. Io devo tornare in classe, all'asilo, mi dia questa focaccina. Morte focaccia con bubazze e paparone per ragazzi. Brutto in terra, tu, metti in terra, seduto, tranquillo, io regalo no, anche io devo andare via. Allora, facciamo così, adesso, siccome mi è venuto un attimo di... forse ho preso un colpo di freddo, tu, io ah, vado. No, tu fa come mio figlio, allora. No, no, figlio, non no, piace, perché... butta, non piace, butta, non no, piace, non butta. Non piace, non ha che mangiato, io volevo la pizza regina, qui non pizza, c'era... Pizza regina, finito è tutto, finito, so, pizza, paparone con allora... regalo bubazzo, e io... metto in terra tovaglia, metti giù con ragazza, allora, tranquillo amico, non preoccupi. No, no, facciamo così, è finito tutto, allora io vado, io andrei, capito? Allora, no, ci, no, no, no, amico, dove io vai? Vado, tu, no, no. Tornare? Ciao, magari... No, amico, vieni qui un attimo. Che ora rifate? Sempre poi? Stesse storie racconta io, poi... sempre uguali, sempre con italiano, sempre, sempre, ciao, uguali vado, di mio figlio, Intanto la McDonald's, uguale. Da McDonald's intanto regalano i pupazzetti dei film, è uscito ieri. E qui ad Agitto regaliamo bubazzo di paparone, amico, uguale. E via, adesso vado. Beh, tu uguale a mio figlio, amico. Venuto, partito da là, papà, andiamo a Italia, Italia. Vale. E porta Italia, io porto Italia per far crescere, lui prende, non paga, non va a scuola, butti in terra, non... Io stufo d'Italia, amico. Dato via, dove vai? Vieni qua, ma che io stufo di casino, di Madonna, di magazzino, ruba di mangiare, di auto, di botte in terra, macchina, e non ho trovato, e buttato nessuno che guarda, e prendi il paparone, porti via, porti di Milano, porti ai negozi, il negozio è chiuso, prende qualcosa, venuto, prende qualcosa, prende paparone, non prende, mio, uguale di mio figlio, mi porta di giro, mi butta in terra, e non va. Mancano 49 giorni alla fine del mondo. Cos'è sta roba? Ma cos'è? Non è martedì, non c'è il Mardi Gras. È settembre, no? Ma è settembre, siamo a novembre. You remember? Venerdì ama il 2 di novembre. Chi è morto tanto è morto per sempre. Al cimitero andate ci vuoi. Ancora una strofa. Do you remember? Venerdì ama il 2 di novembre. Punto, basta. Chi è morto tanto è morto per sempre. Cappa. Al cimitero andate ci vuoi. Ma come andate ci vuoi? Io non ci vado. Ritornello, drago. Say, do you remember? Maria! Viva il 2 novembre! Maria! Faccio il ponte a Gressone! Allora, da Gressone salutiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno aiutato a fare la trasmissione questa settimana, a cominciare da Guido Scotti! Anche Laura Faggin, però! Sì! Carmelo Lauricella! Oh. Poi c'è Michelino, che però sì, poi anche Alberto Caserini, sì. Guido Bertolotti, sì. Salvatore Iorio, sì, grazie. E basta. Drago K. Sì. Venerdì dei morti. Novembre. Di novembre, che è morto tanto è morto per sempre, dal cimitero andate ci voi, paria, save your remember, paria, viva il 2 novembre, paria, faccio il ponte a Gressone.